Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Immaginate una generazione di robot bioispirati, simili a grossi insetti, estremamente forti e capaci di cercare ed estrarre minerali nel sottosuolo in condizioni proibitive per l'uomo, oppure dove i quantitativi di minerali in gioco non sono sufficienti a rendere economicamente sostenibile un approccio tradizionale. Ebbene, questo è il cuore del progetto RoboMiners, finanziato dal programma Horizon 2020 della Commissione Europea, progetto che ha preso il via lo scorso giugno. L'idea in particolare è che questi robot, del peso per capirsi di qualche quintale, possano lavorare in ambienti sotterranei tipicamente allagati e l'acqua, che è quasi sempre presente nel sottosuolo, dà problema, che normalmente quando si tratta di aprire una miniera qui diventa un vantaggio, perché acqua e minerali estratti formerebbero di fatto un fango che verrebbe pompato in superficie, risolvendo così anche il problema del trasporto del minerale. Ebbene, di tutto questo abbiamo parlato ieri con Claudio Rossi, professore dell'Università Politecnica de Madrid, che coordina il progetto RoboMiners e a cui io do il bentornato. Buonasera, bentornato professore Rossi. Buonasera. Dunque, Rossi, una volta che diciamo esisteranno questi oggetti, quindi questi robot capaci di andare alla ricerca di risorse, scavarle, estrarle, in qualche modo pomparle fuori, ecco, però l'idea che tutto il resto del sistema di estrazione mineraria non cambi, probabilmente, diciamo, è un'idea un po' troppo ottimistica. Tanto è vero che nel progetto si parla proprio di un nuovo tipo di ecosistema dell'estrazione delle risorse minerarie. Sì, certo. Allora, l'altro giorno abbiamo parlato un po' del robot, che è uno degli obiettivi principali, però ovviamente nel progetto si tengono in conto altri aspetti, come correttamente diceva lei. Se cambiamo il metodo di estrazione, deve cambiare tutto il sistema di logistica. Tutta la filiera a valle, certo. La filiera a valle, quindi penseremo un po' alla logistica, consumo energetico, processamento del materiale. Ovviamente questo fango che esce dalla miniera si potrà processare in situ, non bisognerà trasportarlo lontano. Certo. Quindi lo che faremo saranno anche studi microeconomici e macroeconomici per vedere un po' in che scenari questa tecnologia sarà vantaggiosa, sarà economica. E ovviamente dobbiamo anche fare un inventario di depositi in Europa dove, certo, dove potrà essere vantaggioso usare questa tecnologia. Ovviamente non pensiamo di risolvere tutti i problemi. Certo, certo. Ecco, una delle cose però più affascinanti è che naturalmente questi robot non saranno singoli, come dire, verranno utilizzati a sciami, non so se è corretto dire così. Sì, nel futuro il scenario che abbiamo in mente è una colonia, diciamo, si può pensare più o meno come un formicaio, quindi una colonia di robot minatori che lavorano in forma assolutamente autonoma, diciamo che la gente in superficie non si preoccupa né sa della loro esistenza probabilmente, semplicemente sotto le loro piedi, varie centinaia di metri sotto le loro piedi, c'è questa colonia di robot che lavorano e scavano. Ecco, ma questi robot, una volta che dovessero essere lì sottoterra che lavorano, non avranno anche bisogno di parlarsi? Come fanno a comunicare dei robot che si trovano sottoterra? Sì, allora il tema della comunicazione ovviamente e della percezione in realtà, perché anche il problema è, certo, come sa il robot dov'è. È una parte, certo, interessante del lavoro che faremo è studiare, sempre guardando la biologia, come gli animali che vivono sottoterra sono capaci di orientarsi e di comunicare fra loro. È una parte di lavoro di ricerca che faremo. Tra le possibili applicazioni di robot di questo genere c'è anche, ci sono anche le applicazioni spaziali. Certamente, in effetti diciamo che uno degli scenari un po' più futuristici, diciamo, che abbiamo pensato, ma non troppo futuristici, è l'estrazione di risorse nello spazio, quindi nella Luna o nel Marte o in asteroidi. La tecnologia che svilupperemo è perfettamente applicabile, certo, a un ambiente dove non c'è aria e dove non ci sono esseri umani. Dove non ci sono esseri umani, certamente se, come dire, la miniera è uno dei posti peggiori in cui uno possa entrare, una miniera nello spazio non è un posto, sì, più accogliente. Ecco, una miniera su Marte, diciamo che non è proprio... diciamo, è pure un po' peggio. Senta, dunque, nel corso di questi 4 anni voi appunto metterete a punto, sperimenterete questo robot e questo vi porterà a dover fare i conti con la necessità di fare alcune innovazioni che oggi definiamo disruptive nel mondo della robotica, no? Cioè dovrete fare i conti con diversi salti tecnologici. Sì, sì, diciamo, allora, dal punto di vista, come dicevo prima, della percezione, come orientarsi in un ambiente dove i sensori normali non funzionano, stiamo parlando di telecamere, laser, certo, cose che si usano, quindi percezione basata sul contatto, tipo i baffi dei talpe, per esempio. Certo, delle talpe, certo. Poi c'è una parte importante, perché il robot autonomo è totalmente lasciato in balia di se stesso, dovrà essere capace di ragionare su se stesso, quindi essere capace di sapere se sta portando a termine il compito per il quale è stato disegnato, quindi dovrà avere questa capacità di autocoscienza. Di autocoscienza, ovviamente non intesa nel senso delle domande mistiche sul senso della vita, ma per esempio deve capire se si sta rompendo, perché... Non lo puoi andare a riprendere a un chilometro sottoterra, deve essere lui che viene su. Esatto, lui dovrà essere capace di ragionare su se stesso, quindi sulla sua performance, sui componenti che ha, se stanno funzionando bene o male, e in base a questo dovrà anche essere capace di riconfigurarci. Quindi diciamo, immaginiamo che si rompa una zampa, si rompa un attuatore, dovrà essere capace, se ne ha la possibilità, di spostare una zampa da un lato all'altro, per esempio. Per esempio, in modo da, certo, compensare, insomma, o poter continuare a operare. Mentre la prima versione, se ho capito, del robot sarà per lo più teleoperata, quindi c'è ancora molto lavoro da fare, no? Sì, diciamo, per non avere troppi fronti aperti bisogna prendere certe scorciatoie tecnologiche per poter avanzare negli altri. Quindi il primo robot sarà teleoperato, avrà un cordone ombelicale che ci permette di portargli, di risolvere il problema dell'alimentazione, la potenza, diciamo, certo, è fondamentale, ma anche di poter usare risorse computazionali, quindi computer più potenti a terra, per poter implementare questa autonomia, questa, insomma, tutte le sue funzionalità, senza dover risolvere tutti i problemi in una volta sola. Ecco, ricordiamolo, questo è un progetto che porterà questa tecnologia a metà strada tra il concept e una possibile eventuale applicazione industriale. Va bene, allora, grazie Claudio Rossi e in bocca al lupo. Ok, grazie a lei, buonasera. E allora, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento come sempre a domani, buona serata anche da parte mia.